L'arrivo e il primo contatto. Il villaggio di Ars. Pare che Ars, che si chiamò volta a volta Artis Villa, Arts, quindi Arz, e infine Ars, sia una località di origine molto antica. Da una pietra druidica che si poteva vedere ancora non molti anni fa, a poca distanza dal paese, si potrebbe concludere che nella contrada vi furono abitanti in un'epoca molto lontana. Tuttavia, il nome di Ars non appare nei documenti scritti che nel secolo X. Una carta del 980 attesta che allora vi erano già una chiesa e la parrocchia organizzata. Tuttavia, Ars è sempre stato un piccolo paesucolo. È situato a 35 km a nord di Lione, nel distretto e nel circondario di Trevaux, sull'altipiano della Dombe. Nell'Aisne, che altrove è montagnoso e boscoso, la Dombe rappresenta la regione della pianura argillosa o delle acque stagnanti. Non ci sono foreste, ma boschi di betulle e di querce, filari di olmi allineati lungo le strade e i prati, ontani, noci e salici sulle sponde dei ruscelli. I monti tranquilli del Beaujolais chiudono a occidente l'orizzonte di Ars. La campagna che circonda il paese si ondula in larghe pieghe, da cui qua e là emergono i boschi. Non c'è l'ampia pianura monotona, dove pullulano gli stagni e non abbiamo ancora i ricchi colli degradanti verso la Saône. Ars sorge sui pendii di una valle, in cui scorre il Fon Blanc, che durante l'inverno diventa piccolo torrente, mentre d'estate è un invisibile filo d'acqua tra ciottoli bruni. Nel 1818 il villaggio appariva misero e triste, una quarantina di case basse costruite in argilla e perdute tra i frutteti. A mezza costa una chiesa, se si poteva dare tale nome a quella costruzione giallastra con volgari finestre sormontata da quattro travi e da una traversa che sostenevano una campana fessa. Le croci del cimitero, secondo l'antica usanza, si addossavano alla chiesa. Vicino all'abside c'era una piccola piazza con 22 bei noci. Accanto alla chiesa c'era la canonica con alcuni metri quadrati di cortile. In fondo alla valle sorgeva, solitario tra i grandi alberi, il castello dei Garets di Ars. Costruito nell'XI secolo, era stato un tempo un maniero feudale, fiancheggiato da una torre, circondato da fossati, coronato di merli. Ma tutto questo apparato guerresco era scomparso e l'antica costruzione non era ora che una vasta casa di campagna, tranquilla, melanconica, dimentica delle cacce e dei gioiosi rumori di un tempo. Per il cattivo stato delle strade, Ars sembrava sperduta in una solitudine inaccessibile. Era un buco nel pieno senso della parola. Gli abitanti non si allontanavano quasi mai, essendo del resto selvatici per natura. Ars è a 30 km da Écully. Don Vianney viaggiava a piedi con poco bagaglio, accompagnato dalla vedova Bibost, che un tempo aveva tenuto in ordine il suo corredo di studente. Qualche suppellettile, un letto, i libri ereditati da un Barley seguivano in una vettura. Non sappiamo chi fosse il conduttore. Il nuovo parroco durò fatica a scovare la sua parrocchia, perché si era diffusa sulla campagna una nebbia che velava le lontananze. Non trovando nessuno che desse informazioni, passato il paese di Tossier, i viaggiatori si smarrirono e per un po' di tempo andarono avanti a caso. Nei prati c'erano alcuni fanciulli che pascolavano le loro pecore e Don Vianney si diresse verso di loro. Quei pastorelli, che parlavano il dialetto del paese, dapprima non lo capirono. Egli chiedeva loro la strada del castello di Ars, pensando che esso si trovasse in paese. Dovette ripetere parecchie volte la stessa domanda. Finalmente il più intelligente, un certo Antonio Girve, rimise sulla buona strada quegli sconosciuti. «Mio piccolo amico», gli disse il sacerdote ringraziandolo, «tu mi hai insegnato la strada di Ars e io ti insegnerò la strada del paradiso». Il piccolo pastore aggiunse che proprio là passavano i confini della parrocchia. Il curato di Ars si inginocchiò a pregare. Il piccolo gruppo scese subito il pendio che porta al Fon Blanc. De là il Vianney scorse alcune casupole sparse attorno a una povera cappella. vedendo quelle case basse coperte di paglia, grigie nella notte cadente, esclamò: «Com'è piccolo!» Poi, mosso da un presentimento soprannaturale, aggiunse: «Questa parrocchia non potrà contenere tutti coloro che più tardi vi verranno». Si inginocchiò nuovamente e invocò l'angelo custode della parrocchia. La sua prima visita fu per la chiesa. Ars aveva ricevuto un buon sacerdote in tutto il senso della parola, cioè un prete santo, anche se nessuno ancora lo sospettava. Un giorno, infatti, sarà canonizzato. È vero che sin allora le sue alte virtù erano rimaste quasi totalmente ignorate, ma la eminente virtù non è necessariamente santità. Quantunque Don Vianney fosse già estremamente zelante e mortificato, in questo periodo della sua vita non aveva ancora realizzato quella ineffabile dolcezza, quelle meraviglie di penitenza e di dedizione che nel 1925 dovevano collocarlo fra i più grandi e i più popolari di quegli eroi che si chiamano santi. Il mattino del 10 febbraio suonò la messa. Ars seppe così di avere un nuovo parroco. Alcune anime piene gioirono, mentre la massa non fu eccessivamente commossa. Ci si meravigliò quando si sentì suonare la messa, nota la contessa di Garez, e molti dissero: «Ma guarda, è arrivato un nuovo prete». Ars, parrocchia cristiana del XVIII secolo. Nel secolo XVIII Ars era stata una parrocchia veramente cristiana. E non bisogna credere, in base a racconti esagerati, che Don Vianney nel 1818 sia caduta in terra di missione, tra una popolazione assolutamente senza fede e senza costumi. Un tempo, nel 1724, Ars aveva avuto come parroco un giovane sacerdote, colto, licenziato in teologia e in diritto canonico, dotato di una grande attività e di uno zelo illuminato per la salvezza delle anime. Quel sacerdote, di nome Francesco Escal, ha lasciato negli archivi parrocchiali un quadro della vita religiosa dei suoi fedeli in quell'epoca. I fedeli, scrive, l'hanno dapprima supplicato e quindi obbligato a istituire nella loro chiesa le confraternite del Santissimo Sacramento, del Rosario e dello Scapolare. La prima domenica di ogni mese i buoni cristiani di Ars fanno in comune una meditazione sulla morte. La festa del Sacro Cuore, istituita recentemente nella diocesi di Lione, è da loro celebrata con grande fervore. Il 24 giugno 1734 tutta la parrocchia, col parroco in testa, si reca in città per acquistare l'indulgenza del giubileo di San Giovanni. Del resto, in quella zona della Dombo si amavano molto le processioni dei pellegrinaggi. Si andava ancora alla cappella dei Minimi di Montmerle il giorno di San Marco, a Santo Eufemio il giorno di San Giorgio, a Ransè il martedì di Pasqua. Ma i parroci, alcuni almeno, erano già preoccupati per la piega che quelle gite pellegrinaggio prendevano fuori di parrocchia e ne avevano informato l'arcivescovado. Le feste, a poco, da religiose diventavano profane. Si beveva, ci si divertiva, si ballava. Quando giunse la circolare di Monsignor de Neville che metteva in guardia il clero contro tali abusi, Don Escal scrisse con soddisfazione sul suo registro: «Non posso dire che i miei parrocchiani si siano abbandonati a tali eccessi». Il successore di Don Escal fu Don Claudio Garnier, 1740-1775. Dal 1762 al 1763 fu innalzato il campanile in pietra, partendo dal cordone, che sostituì quella specie di gabbia di legno che c'era prima. Quel campanile non esisteva più all'arrivo di Don Vianney, perché il sanculotto Albit l'aveva fatto abbattere nel 1794. Dopo Don Claudio Garnier, Ars fu assistito religiosamente da Don Sinforiano Aymar, 1775-1788. Del suo passaggio non rimangono tracce. Ha registrato battesimi, matrimoni e funerali, ma nulla più. Tuttavia, alla fine del quaderno del 1780, riferisce che 5 suoi parrocchiani hanno piantato una vigna ciascuno. Con questo, egli avrà senza dubbio voluto sottolineare, si interessava infatti del benessere materiale e morale dei suoi parrocchiani, che il dissodamento delle terre dava già buoni risultati. Il 31 gennaio 1788 è nominato parroco di Ars Don Stefano Saunier, di 28 anni, sacerdote di Lione, baccelliere alla Sorbona. Tali sono i titoli che egli si dà sul registro parrocchiale. Avendo nel 1791 prestato il giuramento costituzionale, egli esercita le sue funzioni in parrocchia almeno fino all'inizio del 1793. Quantunque prete giurato, il cittadino Saunier è arrestato, ma viene rilasciato quasi subito. Quel povero disgraziato, per scampare dalla morte, consegnò le sue lettere di sacerdozio. Dall'ottobre 1793 l'apostata osa ricomparire come mercante nella parrocchia in cui era stato legittimo pastore. Nel marzo dell'anno seguente l'umile chiesa dove egli aveva celebrato la messa, spogliata da una banda di energumeni venuti da Trevaux, diviene un club in cui i liberi pensatori del paese si radunano per le loro discussioni. Servirà anche da luogo di riunione per le feste delle decadi. La tradizione locale, ancora viva in paese, narra che un vecchio usciere di Trevaux s'era messo a fare ridicolmente nella regione di Tombes il missionario della Dea Ragione. Tuttavia circolavano nella regione sacerdoti fedeli travestiti. L'elenco degli atti di battesimo redatti in base alle testimonianze dei padrini e delle madrine segna il passaggio nella parrocchia di Ars di Don M. Shoa, parroco di Trevaux 1793, del padre Giovanni Battista Cappuccino 1794, di Don Blanc e di Don Condamen 1795. È molto probabile che questi sacerdoti celebrassero anche la messa e amministrassero i sacramenti, nei due luoghi segnati da una costante tradizione, presso i Dutang, alla cascina dell'Epo e al castello dei Garets. Disgraziatamente quei confessori della fede non visitarono Ars che di passaggio, in tempi prestabiliti e per gruppi ristretti. La massa della popolazione li ignorava. Nel 1801, quando la Chiesa di Francia comincerà a risorgere dalle rovine, la parrocchia di Ars, per quanto riguarda la fede e i costumi, sarà in piena decadenza. Il risveglio delle anime. Nonostante tutto, le anime si risvegliano. Nel marzo del 1802 un vecchio padre certosino, Don Giovanni Lecour, che si firma missionario delegato del Consiglio, viene a predicare a quella povera gente, da troppo tempo abbandonata, le sacre missioni. Come testimoniano i registri parrocchiali, egli battezza bambini già grandicelli e regolarizza matrimoni. Poi, terminate le missioni, Don Lecour lascia il villaggio per evangelizzare altri paesi. Il 30 maggio 1803 il Consiglio Municipale, Ars non è più parrocchia ma è ancora comune, delibera di erogare una somma di 1.800 franchi per riparare la chiesa, per pagare l'affitto della canonica, per avere un vicario residente e per acquistare dei paramenti e una campana. L'amministrazione diocesana tenne calcolo di questa buona volontà e all'inizio del 1804 Don Lecour tornava nel paese col titolo di rettore. Lavorò di nuovo da vero missionario, curando le pecore perdute. Sfortunatamente rimase troppo poco in quella parrocchia. Dopo un anno fu trasferito nella parrocchia di Jassin e fino al marzo 1806 il villaggio di Ars, unito direttamente a Misérieux, non ebbe a sua disposizione altro sacerdote all'infuori di Don Amato Verrier, che era nello stesso tempo parroco di Misérieux, di Ars, di Tossier, di Saint-Euphémie e di Saint-Didier-Formand. Finalmente venne concesso a Misérieux un sacerdote aiutante, Don Berger. Costui amministrò col titolo di vicario la cappellania d'Ars. Il 22 aprile 1807 condusse a Trevaux, dove il cardinale Fesch amministrava la cresima, 85 abitanti di Ars, cioè un buon terzo della popolazione. Don Berger, che era molto stimato dalla castellana contessa di Garets, che avrebbe voluto trattenerlo, chiese egli stesso il trasferimento e fu mandato come vicario a Sury-le-Comtal nell'ottobre 1817. Un giovane sacerdote di 26 anni, Don de Place, nominato in dicembre, pare sia venuto ad Ars solo per morirvi. Mossi a compassione, vedendolo arrivare tanto indebolito nel cuor dell'inverno, tutti gli abitanti, scrive la castellana, si sono affrettati a dargli, chi 4, chi 15 ed alcuno 50 fascine. Ciò prova veramente la stima che essi hanno per il loro parroco e il desiderio che si trovi bene tra di loro. A vero dire, durante questi 25 ultimi anni, il villaggio di Ars non brillò dal punto di vista religioso. Il paganesimo pratico era penetrato nelle anime, portando in molti l'indebolimento, anche se non era ancora la scomparsa totale della fede. In parrocchia, ha detto un testimonio molto informato, si lasciava correre. C'era una negligenza e una certa indifferenza. Non penso che vi siano stati ad Ars disordini eccezionali. Ciò che la parrocchia presentava in fondo di più deplorevole era la dimenticanza delle pratiche religiose. Si mancava alla messa senza rimorsi, per futili ragioni. Si lavorava la domenica senza alcuna necessità, soprattutto durante il periodo della fienagione o della mietitura. Gli uomini, i giovani ed anche i fanciulli avevano l'esecrabile abitudine della bestemmia. Ars possedeva 4 osterie, ove i padri di famiglia andavano a sprecare i loro soldi. Soprattutto la sera della domenica e del lunedì c'erano ubriachi che turbavano la pace del villaggio. Le ragazze erano appassionate al ballo. Le veglie prolungate fino a tardanotte erano occasione di gravi peccati. A tutto ciò s'aggiunga la molta ignoranza. I fanciulli erano poco assidui al catechismo, del resto non erano pochi quelli che sapevano leggere. Non c'era una scuola fissa, mandati al lavoro di buon'ora, passavano nei campi tutti i giorni della bella stagione. Venuto l'inverno, un maestro d'occasione apriva una scuola per le fanciulle e i fanciulli. Ma c'erano sempre dei poveri ragazzi che non ricevevano nessuna istruzione e se ne stavano in ozio. Il quadro non è lusinghiero, ma Ars, dopo tutto, assomigliava alle parrocchie vicine. Non era né peggio né meglio. Non c'era odio per il sacerdote. Nell'insieme un certo fondo di religione, ma assai poca pietà. Del resto, per farsi un'idea esatta di quello che fosse Ars in quei tempi, basta scorrere i discorsi del giovane Don Vianney. La maggior parte di quelli che ancora possediamo furono composti nei primi anni del suo ministero pastorale. Descrivono la mentalità di quella popolazione contadina per la quale le cose terrene venivano prima di ogni altra cosa. Grazie a Dio, con la zizzania c'era anche del buon grano. La confraternita del Santissimo Sacramento istituita da Don Escal non era del tutto caduta. C'erano ancora in Ars alcune famiglie che conservavano abitudini saldamente cristiane. Fin dai primi tempi il sindaco Antonio Mandi e Michel Signier, consigliere comunale, si allearono a Don Vianney per un'opera comune di rigenerazione. Le loro famiglie, come quelle dei Lassagne, dei Chaffanjon, dei Verger, frequentavano regolarmente le funzioni domenicali. Un seminarista oriundo di Ars, Don Renard, studiava al Sant'Ireneo di Lione. La Castellana. Al castello, Maria Anna Colomba Garnier de Garet, più conosciuta col nome di Contessina di Ars, divideva il suo tempo tra il governo della casa, le visite ai poveri e le pratiche di una pietà meticolosa. Ogni giorno, secondo una usanza ereditata da sua madre, recitava il breviario in compagnia di un vecchio servitore fedele, che la gente chiamava con reverenza Signor Saint-Fal. La Contessina di Ars aveva in quel tempo 64 anni, quantunque piccola di statura era estremamente distinta. Della sua prima educazione nella sua casa di Saint-Cyr aveva conservato quelle maniere un po' sorpassate, ma così prettamente francesi, che davano alla sua conversazione tanta piacevolezza e grazia. La rivoluzione non aveva cacciato la contessina di Ars dai suoi possedimenti e ciò si spiega con la reale simpatia che i conti di Garez si erano conquistati in paese. Vi era rimasta tranquilla insieme con la sua veneranda madre. Alcuni sacerdoti celebrarono la messa di nascosto nell'oratorio del castello. Non sappiamo se le castellane siano mai state inquietate per questo delitto antirivoluzionario. La contessina di Ars era amata dalla povera gente, pagava pigioni, vestiti e viveri. I suoi registri di cassa provano con quale meticolosità notava anche le più piccole elemosine. Nonostante la sua carità, fino all'arrivo di Don Vianney, la sua influenza sulla popolazione non sembra essere stata molto considerevole. viveva piuttosto ritirata nel suo vecchio castello di mattoni, dove riceveva le visite delle famiglie nobili del paese. Suo fratello Francesco, più giovane di lei di 3 anni, abitava a Parigi nel sobborgo Saint-Germain e rare volte veniva al castello di Ars. Antico capitano dei dragoni nel reggimento di Penthièvre, cavaliere di San Luigi, aveva sposato una signorina di Bondy, dalla quale non aveva avuto figli. Il programma del nuovo pastore. Senza dubbio, nel campo che gli era stato affidato, Don Vianney scorse del buon grano, ma era talmente soffocato dalla zizzania che ne rimase spaventato. E poi dobbiamo notare che egli vide la sua parrocchia attraverso la propria delicatezza di coscienza e il proprio orrore del peccato. Vi scoprì con dolore miserie che altri sguardi non avrebbero scorto tanto chiaramente. Senza perdere tempo a lamentarsi, si mise immediatamente al lavoro. Non pretendeva di cambiare il mondo, ma solo quel piccolo paese che Dio gli aveva affidato. Gli insegnamenti e gli atti di Don Vianney nei primi anni di ministero pastorale vanno giudicati da questo punto di vista. Egli parlerà per Ars, tuonerà contro gli abusi di Ars. Posto in un ambiente diverso, non c'è dubbio che il suo zelo si sarebbe esercitato in altro modo. Per abusi e mancanze uguali, dovunque, sotto forme e con sfumature diverse, non cercherà medicine nuove, ma cercherà solo di applicare i vecchi rimedi secondo i metodi tradizionali. Il suo programma, meditato dinanzi al tabernacolo, era quello di ogni pastore, preoccupato per la salvezza del suo gregge. Prendere contatto con i parrocchiani il più presto possibile, assicurarsi la cooperazione delle famiglie migliori, migliorare i buoni, richiamare gli indifferenti, convertire i peccatori scandalosi e, più di tutto, pregare Dio dal quale vengono tutti i doni, santificare se stesso per santificare gli altri, far penitenza per i peccatori. Dinanzi all'opera da intraprendere si sentiva debole e insufficiente, ma il giovane curato di campagna possedeva in sé la forza misteriosa della grazia. Dio sceglie l'umiltà per abbattere le potenze dell'orgoglio. Un santo sacerdote realizza grandi cose con mezzi in apparenza assai modesti. La cerimonia di investitura. Quantunque Don Vianney non fosse che vicario cappellano di Ars, i suoi parrocchiani gli diedero, come avevano fatto con i suoi predecessori, il titolo di curato. Fu investito con questo nome la domenica 13 febbraio. Tutta la parrocchia, fatte poche eccezioni, era riunita. La cerimonia, semplice ma eloquente, interessò visibilmente i partecipanti. Il vecchio parroco di Miserie, Don Ducreux, al quale il nuovo cappellano non era sconosciuto, circondato dalle autorità municipali, venne a fargli visita in canonica. Sulla soglia della chiesa gli impose la stola pastorale, simbolo della sua missione e della sua autorità. Lo condusse all'altare, dove il giovane curato aprì il tabernacolo, al confessionale, sul pulpito, al fonte battesimale. Quindi il pastore, dopo aver detto alle sue pecore quanto le amasse e volesse il loro bene, celebrò per tutti la sua prima messa solenne. Senza dubbio, nell'umile chiesetta non risuonarono che poveri canti, ma fu una festa per Ars. Nel corso della cerimonia, i parrocchiani esaminarono con curiosità il nuovo venuto. Già parecchi l'avevano visto attraversare la piazza, fermarsi nel cimitero, ed era loro apparso di statura media, con un'andatura un po' goffa, con quella sua veste di stoffa grossolana e con le scarpe da contadino. Ma quando lo contemplarono all'altare, radioso, trasfigurato, mentre celebrava con una maestà inattesa, provarono venerazione per quel prete e circolò un bisbiglio di approvazione. «Abbiamo una chiesa povera», diceva il sindaco, rappresentante autorevole dei suoi amministrati, uomo di molto buon senso, che resse per 20 anni il comune. «Abbiamo una povera chiesa, ma possediamo un curato santo». Il governo della canonica. Don Vianney non si occupò in nulla del governo della casa. Ne affidò tutta la cura alla vedova Bibost, più pratica di lui in affari domestici. L'aveva portato con sé perché gli facesse da domestica, ma non doveva rimanervi a lungo perché il curato trascurava volentieri la cuoca. La canonica era composta in tutto da 5 locali, illuminati ciascuno da una finestra. Al pian terreno, la cucina e il tinello. Al primo piano, al quale si saliva per una scala di pietra, una camera per il curato e 2 per gli ospiti di passaggio. L'insieme era già convenientemente ammobiliato. Inventari dell'epoca segnalano, tra le altre cose, 6 sedie di velluto con spalliera e la poltrona pure in velluto, una poltrona coperta in siamese verde e rosso, un tavolo con i suoi 4 prolungamenti, 2 letti con baldacchino blu e bianco e i coltroni, un piumino di taffetà bianco e rosa imbottito, 2 materassi di tela nuova a quadrettoni bianchi e molti altri oggetti più o meno comuni. Tutto questo era stato prestato gratuitamente alla canonica di Ars dai castellani. Don Vianney, che ne aveva anche troppe del vecchio letto lasciatogli da Don Valley, non volle tenere che il necessario. Non era libero di disporre a proprio piacimento ora, perciò approfittò di una visita al castello per pregare la contessina di Ars di riprendersi quelle belle cose di cui egli non aveva affatto bisogno. Così pure non avrebbe saputo che farsene di un girarrosto con lo spiedo e di altri arnesi da cucina. Il suo tenor di vita sarebbe stato assai poco complicato. Avrebbe tenuto soltanto, se gli veniva concesso, una coccetta ordinaria, 2 vecchi tavoli e una biblioteca, qualche armadio, delle sedie di paglia, una marmitta di terracotta, una stufa e altri piccoli oggetti utili. Tanta semplicità colpì la povera gente. I ricchi poi, proprietari o grossi agricoltori che stentavano a mollare qualche soldo per i poveri, rimasero stupefatti nell'apprendere che il loro curato non si teneva nulla per sé. Di fronte a ciò non poterono non riconoscere in lui un vero uomo di Dio. I mendicanti che ricevevano da lui generose elemosine si misero a testerne le lodi. Don Vianney aveva portato da Equigli un portafoglio ben provvisto, che ben presto si svuotò. La visita alle famiglie. Il curato d'Ars non ebbe certo l'ingenuità di pensare che la sola sua presenza in parrocchia sarebbe bastata a sopprimere ogni disordine. Nelle settimane successive all'ingresso percorse la campagna in cerca di anime. Era necessario acquistare ascendente su quelle nature dure e rozze, in cui c'era più ignoranza che malizia, e conquistare i cuori. La visita a una 60ina di famiglie non è certo granché, ma è il modo che ci interessa. Don Vianney, col suo cappello sotto braccio, lo portava sempre così, usciva verso mezzogiorno dalla chiesa o dalla canonica. In quell'ora era sicuro di trovare tutti in casa. La prima accoglienza non fu dappertutto molto buona, tuttavia, racconta Guglielmo Villiers, contadino di Ars, che aveva allora 19 anni, alla maggior parte apparve pieno di bontà, di serenità e di affabilità, ma non l'avremmo mai creduto così profondamente virtuoso. In quella presa di contatto parlò loro quasi unicamente dei loro interessi materiali, dei lavori della campagna e del raccolto. Volle conoscere la situazione delle famiglie, il numero e l'età dei fanciulli, le parentele e le relazioni di ciascuno. Prima di partire aggiungeva un richiamo spirituale e dalle risposte che otteneva poté farsi un primo giudizio sulla loro maggiore o minor fede. Ahimè, quante lacune e quante miserie sotto questo aspetto. Don Vianney constatò con dolore che un certo numero dei suoi parrocchiani ignorava perfino le nozioni elementari del catechismo, specialmente quelli che erano cresciuti durante la rivoluzione, cioè i giovani e le giovani. Gli uomini e le donne dai 25 ai 35 anni. Gli esempi cattivi, infatti, venivano soprattutto da loro e parecchi giungevano fino a vantarsene dicendo schiettamente che nei balli, nella profanazione della domenica e in altre cose del genere non ci vedevano niente di male. Come ricondurre all'ovile quelle pecore perdute? Il nuovo curato sentì la sua impotenza, ma non si perse di coraggio. Gli rimanevano 2 cose, Dio e l'avvenire.